Voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Antonio De Matteis. Indossare la filosofia greca di Chiton. Di Anna Marino. Credo che Napoli sia una città che ha avuto tantissime dominazioni in passato. E mio zio, che è il fondatore dell'azienda, negli anni 70, decise di cambiare il marchio, che allora era Cipa, nato nel 1956, in un marchio più internazionale. Perché Cipa, una volta che incominciava ad affrontare i nuovi mercati, era troppo vicino a Chip, che in inglese significa economico. E noi tutto siamo tranne che economici. Quindi cercò un nuovo nome e pensò a questa tunica greca che i greci indossavano quando andavano sull'Olimpo, quindi l'abito più elegante che i greci indossavano, e cercò di farlo diventare inglese, perché in quegli anni i nomi inglesi andavano molto di moda. E così nasce Chito. Antonio De Matteis, amministratore delegato di Chiton Group, parla di origini che si intrecciano, quelle della civiltà greca e quelle del nome della sua azienda. Il nipote del fondatore, Ciro Paone, racconta come è arrivato a loro il nome che deriva da Chitone, la tunica che i greci indossavano per recarsi a pregare sull'Olimpo e che in tutto il mondo è sinonimo di eleganza, un mix di uno chic tipicamente partenopeo e di uno stile dal sapore cosmopolita, il nome di una griff dalle radici partenopee. L'azienda è ad Arzano, che ha conquistato una ribalta mondiale. Il marchio ha oggi 750 dipendenti, se consideriamo i tre siti produttivi di Arzano, Parma e Fidenza, per un fatturato che nel 2011 ruota intorno agli 80 milioni di euro, con un aumento del 25% sull'anno precedente. Nel 1956 Ciro Paone è nominato Cavaliere del Lavoro nel 1999 dall'allora presidente Ciampi, che proviene da un'antica famiglia di tessuti, fonda la Cipa, azienda di produzione di capi spalla per uomo con 40 dipendenti, e si prepara ad affrontare i mercati esteri. Dopo anni di sacrifici e di porte sbattute in faccia, nel 68 taglia il nastro del marchio Chiton ad Arzano, in provincia di Napoli, e in pochi anni diventa famoso in Europa, soprattutto in Germania, ancora prima che in Italia. Prima con il classico sartoriale uomo, poi, dal 96, con la collezione donna. Ma Ciro Paone ha dato vita anche ai principi guida dell'impresa di famiglia, come racconta il nipote, Antonio De Matteis. Io credo che sia stata una grandissima intuizione. Mio zio negli anni 50, noi veniamo dai tessuti, vendevamo tessuti ai sarti, avevamo un negozio di tessuti all'ingrosso e quindi i nostri clienti erano i sarti. E Napoli in quell'epoca era una città che era piena di sarti, ogni palazzo aveva 3-4 sarti, e capire in quegli anni che la sartoria sarebbe finita se non si fosse creata un'azienda che la raccoglieva, ecco, secondo me quella è stata la grandissima intuizione di mio zio. Un punto marca questa differenza rispetto alle altre attività sartoriali. A sorpresa, Antonio De Matteis lo rivela. Sicuramente la parte più difficile è stata quella di trasmettere tutti quelli che molti chiamano difetti della sartoria e farli diventare un pregio. Cioè, non avere dei capi uno uguale all'altro, non avere dei capi standard. Chiton produce circa 27.000 ricercatissimi capi all'anno. Materie prime innanzitutto. Per esempio, per gli abiti si adoperano i cashmere più pregiati. Si tagliano col gesso e con le forbici. Si cuce tutto a mano, proprio come 50 anni fa. 22 ore per ogni capo. I costi si triplicano. Ma Ciro Paone, 73 anni, patron napoletano di Chiton, per creare il suo impero dell'abbigliamento ha viaggiato tanto all'estero. Mi sono laureato alla Bocconi della strada, ha detto, con il campionario nell'inseparabile valigia, beccandosi spesso tanti no. E ancora oggi ripete a familiari e dipendenti che se non si fatica, se mancano grinta e determinazione, non si conclude nulla nella vita. Antonio De Matteis ne fa una fotografia. Mio zio ricorda sempre un detto. Lui non ha mai visto una valigia camminare da sola, ci vuole sempre un ambasciatore che spiega e fa capire cosa si vende. Secondo me lui è stato un grandissimo ambasciatore. La Chiton poteva nascere solo a Napoli, io dico, perché la tradizione sartoriale che c'è nella nostra città credo non ci sia quasi nessuna città del mondo. La carriera di Antonio De Matteis in Chiton comincia nel 1986, lavorando come agente di vendita accanto allo zio, presidente e fondatore dell'azienda, Ciro Paone. Nel 2007 eredita da Ciro Paone la gestione dell'impero Keaton come Chief Executive Officer. L'esperienza sul campo e la sua grande capacità lo conducono a una rapida crescita professionale. Io sono arrivato in azienda nell'86, quindi non già piccolo. Prima sentivo parlare di mio zio, perché mio zio ha sempre viaggiato molto, ha sempre girato molto il mondo per cercare di introdurre questo prodotto in giro per il mondo. Quindi l'ho conosciuto poco. L'ho conosciuto quando ho cominciato a lavorare con lui. Ho avuto la fortuna di avere, io dico, di avere un grandissimo maestro. Un maestro che mi ha fatto vedere tutto, mi ha fatto conoscere tutto, mi ha insegnato tutto. Mi faceva partecipare a tutto. Anche quando io non capivo niente, all'inizio mi ha fatto partecipare a tutto, incontri con le banche, incontri sul prodotto, incontri sulla creazione della collezione, a tutto, a 360 gradi. Anche adesso, io dico sempre, ripeto spesso, ho dormito più con mio zio che con le mie due mogli, quindi posso, in questo si può tradurre tutto. Facile distrarsi a Napoli con i suoi colori. Ecco come entrano nelle collezioni. Credo che entra in modo naturale. La mattina, se a Napoli è una bella giornata, ci sono colori che difficilmente si riescono a vedere in qualsiasi altra parte del mondo. Noi diciamo sempre che il nostro Signore veniva in vacanza a Napoli. È talmente bella che non riusciamo a rovinarla, nonostante noi napoletani ce la mettiamo tutto per rovinarla, non ci riusciamo. Napoli nel mondo. I viaggi ora come allora sono la parte integrante dell'azienda. È dall'Inghilterra e dalla Scozia che provengono principalmente i tessuti. E Keaton esporta l'80% del prodotto, in particolare negli Stati Uniti, in Germania e in Giappone. Antonio De Matteis spiega quale strada si percorre per arrivare a questo obiettivo, facendo da sempre gli ambasciatori della città. Sicuramente per mio zio è stato un handicap, non è stato un... Dire che veniva da Napoli ai tedeschi, quando ha iniziato a fare i mercati... Nessuno ci dà fiducia. Sfortunatamente la nostra città ha una reputazione terribile in giro per il mondo, quindi all'inizio sicuramente è stato un grandissimo ostacolo. Ecco perché abbiamo dovuto lavorare di più, ecco perché abbiamo dovuto essere ancora, io dico, più precisi degli svizzeri. Azienda sociale in controtendenza con la crisi. Keaton pensa ai propri dipendenti e sottolinea l'importanza del bilanciamento tra vita e lavoro. Antonio De Matteis spiega perché. La nostra ricetta è che noi passiamo più tempo in azienda che a casa. Molto semplice. Quindi l'azienda è diventata la nostra casa. Ecco, noi invitiamo sempre tutti a venire a visitare la nostra azienda, perché secondo me solo visitandola si riesce a capire questo concetto. Mio zio è un grande appassionato di arte. Non ha collezionato arte e l'ha portata a casa sua. La collezione di arte di mio zio è in azienda e tutti la possono vedere, e questo secondo me è uno dei grandissimi messaggi che mio zio ci lascia. Cioè, non c'è fatta la sua collezione, e la possiamo vedere tutti, la possiamo ammirare tutti, la possiamo godere tutti, anche gli operai. Futuro dell'azienda che passa attraverso la formazione nel settore tessile. Per questo è nata nel 2001 la scuola di alta sartoria Keaton. Dopo 2 anni di studi, 20 ragazzi ne trascorrono altri 3 in industria per acquisire la mano, fare bene nel tempo tecnico giusto. Con l'autunno 2012 inizia la fase di recruiting, ragazzi tra i 16 e i 21 anni che desidereranno candidarsi per prendere parte al 6° corso, sempre gratuito. Al termine della formazione, della durata di 2 anni, l'80% delle nuove leve viene inserito presso la Ciro Paone SPA. Niente deve andare perso. Nel motto dell'azienda, che il meglio del meglio è più uno, c'è un po' raccolta tutta la filosofia dell'azienda, quella di non accontentarsi mai. E solo non accontentandosi, secondo me, si riesce a fare di più e si riesce a migliorare la qualità della vita, tutta. La cultura del cibo non solo di famiglia, ma anche nel solco della tradizione napoletana. La mensa è fatta con la stessa filosofia di tutta l'azienda. Non esiste cibo precotto da noi. si cucina tutto al momento. Logicamente cose semplici, perché non si possono fare cose molto difficili. Però mangiamo tutti quanti insieme, in tre turni, perché ormai l'azienda è cresciuta da quando abbiamo costruito la mensa, però mangiamo tutti le stesse cose. Diciamo che i nostri consigli di amministrazione avvengono più spesso in mensa che in sala riunioni, perché ci incontriamo quando ci siamo tutti a mensa e quindi possiamo scambiarci tutti i punti di vista e tutti... Ecco, è un punto di incontro, uno spaghetto al pomodoro, ma cose molto semplici, una fetta di mozzarella, non è che facciamo cose complicate. Noi crediamo molto nella semplicità c'è la qualità. Nella mensa nostra abbiamo il vecchio chef di mio nonno, ha quasi 76-77 anni, e la mattina va a fare la spesa, ed è fatta veramente come se si mangiasse a casa, cioè è fatta giorno per giorno, non c'è... menù mensile, menù settimanale, organizzata la giornata. Il vestito dell'uomo e la seduzione. La maestria della sartoria napoletana nelle camicie, così come nelle cravatte, realizzate come vuole l'antica tradizione partenopea, quella delle sette pieghe. 15 artigiani sono dedicati alla lavorazione di questo prodotto, che in nessun modo può essere seriale. La cravatta è l'unico elemento di libertà di espressione, secondo Antonio De Matteis. Io dico quello che è per me, perché sicuramente la cravatta, ecco, io viaggio sempre con, anche per due giorni, con almeno 20 cravatte. Dipende dal tempo, dipende dalla testa, dipende, non dipende solo dall'abito e dalla camicia che indosso, ma dipende da tantissimi fattori qual è la cravatta che metto la mattina. A Milano era una giornata abbastanza grigia, ho messo una cravatta abbastanza tranquilla. Io apro la finestra prima di decidere che cravatta mettere. Il tempo mi condiziona molto. La cravatta va sopra la camicia, non va sull'abito. Chi comanda sulla cravatta è la camicia. È l'accessorio più bello che c'ha l'uomo, secondo me. E penso sia anche l'accessorio più sexy che c'ha l'uomo. Quando una donna ti toglie la cravatta, tecnicamente è fatta. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.